Non so dove i gabbiani abbiano il nido, ove trovino pace. Io son come loro, in perpetuo volo. La vita la sfioro, come essi l'acqua ad acciuffare il cibo. E come forse anch'essi amo la quiete, la gran quiete marina. Ma il mio destino è vivere, balenando in burrasca.